resta il fumo della prima guardia. Uomo col fucile, il nemico è la tua naia. Sei prigioniero e resti solo a difenderti dal freddo. Nuoto nel nero, dove sfioro le tue mani. Poi apro gli occhi steso in aria, è la prima guardia. Esplode il mondo e resto solo, dalle mani nasce un fiume. L'alba è un miraggio che mi esplode dentro. Mi scuserai se parlo una lingua diversa. Secolo, 365 croci e la tua privazione mi taglia la testa. Uomo col fucile, prigioniero della tua bandiera. Resta il fumo, è la prima guardia. Torri come pere, ma il nemico non esiste. Esplode il nulla e resto solo a difendermi dal buio. Grido l'allarme che mi esplode dentro, perché siamo al mondo, problemi diversi. Un anno è un secolo, 365 croci e la tua privazione mi taglia la testa. Secolo 360.